Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Tornai da Marta ogni sera. Non mi veniva neppure in mente di pregarla di mostrarmi la sua camera e tantomeno di domandarle come Jacques trovava i nostri mobili. Non agognavo nient'altro che quegli eterni sponsali. I nostri corpi distesi presso il caminetto, l'uno a contatto dell'altro, e io senza muovermi, per timore che un gesto solo bastasse a scacciare la felicità. Ma Marta, che assaporava il medesimo incanto, credeva di farlo da sola. Nella mia gaia pigrizia vi lesse indifferenza. Credendo che non l'amassi, pensò che presto sarei uscito da quel salotto se non avesse fatto qualcosa per trattenermi presso di lei. Stavamo zitti. Era per me un segnale della felicità. Mi sentivo così vicino a Marta, sicuro che pensassimo a un tempo alle stesse cose, che mi sembrava assurdo rivolgerle la parola. Era come parlare a voce alta quando si è soli. Questo silenzio opprimeva la poverina. Sarebbe stato di buon senso per comunicare usare mezzi grossolani come la parola o il gesto, pur deplorando che non ve ne fossero di più raffinati. Vedendomi ogni giorno sprofondare sempre di più in quel deliziato mutismo, Marta si immaginò che la mia noia crescesse. Era disposta a tutto pur di distrarmi. La chioma sciolta, a lei piaceva dormire accanto al fuoco. Piuttosto ero io a crederla addormentata. Prendeva a pretesto il sonno per mettermi le braccia intorno al collo e per dirmi, appena sveglia, gli occhi umidi, di aver fatto un sogno triste. Non voleva mai raccontarvelo. Approfittavo del suo finto sonno per odorare i suoi capelli, il suo collo, le sue gote ardenti, sfiorandole appena per non svegliarla. Carezze che non sono, come si crede, gli spiccioli dell'amore, ma al contrario, la moneta più preziosa di cui soltanto la passione si serve. Io credevo fossero permesse dall'amicizia. Tuttavia cominciavo a disperarmi seriamente del fatto che solo l'amore ci desse dei diritti su una donna. Avrei fatto a meno dell'amore, pensavo, ma mai di non avere alcun diritto su Marta. E per averne ero anche propenso all'amore, pur convinto di disapprovarlo. Desideravo Marta e non lo capivo. Allorché dormiva così, la testa appoggiata a una delle mie braccia, mi chinavo su di lei per guardare il suo volto circondato di fiamme. Era giocare col fuoco. Una volta mi avvicinai troppo senza peraltro che la mia faccia toccasse la sua. Mi sentii come l'ago che oltrepassa di un millimetro la zona proibita appartenente alla calamita. È colpa della calamita o dell'ago? Fu così che sentii le mie labbra contro le sue. Teneva ancora gli occhi chiusi, ma ovviamente come uno che non dorme. La baciavo. Stupito della mia audacia, mentre in realtà era lei che, accostandomi io al suo viso, aveva tirato la mia testa contro la sua bocca. Le sue mani si aggrappavano al mio collo. Non si sarebbero aggrappate con più furia in un naufragio, e non capivo se voleva che io la salvassi oppure che annegassi insieme a lei. Ora si era seduta. Teneva la mia testa sulle sue ginocchia, accarezzandomi i capelli, ripetendo dolcemente: devi andartene, non devi mai più ritornare. Non osavo darle del tu. Quando non potevo più tacere, cercavo a lungo le mie parole, costruendo le mie frasi in modo da non rivolgermi a lei direttamente, poiché se non riuscivo a dare del tu, dare del lei mi era addirittura impossibile. Le mie lacrime mi bruciavano. Se ne cadeva una sulla mano di Marta, mi aspettavo sempre di sentirla gridare. Accusavo me stesso di aver rotto l'incanto, dicendomi di essere stato davvero pazzo a posare le mie labbra sulle sue, dimenticando che era stata lei a baciarmi. Devi andartene e non tornare mai più. Le mie lacrime di rabbia si mescolavano alle mie lacrime di pena, Così al lupo catturato il furore fa male come l'agguato. Se avessi parlato avrei offeso Marta. Il mio silenzio l'inquietò. Lo prese per rassegnazione. Poiché è troppo tardi, immaginavo che lei pensasse, forse nella mia previdente ingiustizia, in fondo, mi fa piacere che egli soffra. Rabbrividivo con quel fuoco e battevo i denti. A questo dolore vero che mi rendeva maturo si mescolavano sentimenti infantili. Ero come lo spettatore che non vuole andarsene perché la conclusione non gli garba. Le dissi: «Non me ne andrò. Lei mi ha preso in giro. Non voglio più rivederla». Se non intendevo ritornare dai miei, non volevo neanche rivedere Marta. Piuttosto l'avrei scacciata da casa sua. Ma lei singhiozzava. «Sei un bambino, non capisci dunque che se ti chiedo di andartene è perché ti amo». Le risposi con astio che capivo benissimo i suoi doveri e che suo marito era in guerra. Scuoteva la testa. «Prima che tu ci fossi ero felice. Credevo di amare il mio fidanzato. Lo scusavo di non capirmi bene. Sei stato tu a rivelarmi che non l'amavo. Il mio dovere non è quello che tu pensi. Non è di non mentire a mio marito, ma di non mentire a te. Vattene! E non credermi cattiva. Presto mi avrai dimenticata, ma io non voglio essere la causa della tua vita infelice. Piango perché sono troppo vecchia per te». Quella parola d'amore era di una puerilità sublime. Qualsiasi passione avessi provato in seguito, mai più si sarebbe ripetuta l'adorabile emozione di vedere una ragazza di 19 anni piangere perché si sente troppo vecchia. Il sapore del primo bacio mi aveva deluso come il frutto che si assaggia la prima volta. Non nella novità, ma nell'abitudine scopriamo i piaceri più grandi. Dopo alcuni istanti, non solo mi ero abituato alla bocca di Marta, ma già non potevo più farne a meno, e proprio allora lei voleva privarmene, e per sempre. Quella sera Marta mi riaccompagnò fino a casa. Per sentirmi più vicino a lei, mi stringevo nei panni e la tenevo per la vita. Non diceva più che non ci si doveva rivedere, al contrario, era triste all'idea che ci saremmo lasciati di lì a poco. Mi faceva giurare mille follie. Giunti alla casa dei miei genitori, non volli che Marta ripartisse da sola e l'accompagnai a casa sua. Quelle bambinate non sarebbero certo finite perché lei volle accompagnarmi di nuovo. Accettai, a patto che mi lasciasse a metà strada. Arrivai in ritardo per la cena. Era la prima volta. Imputai al treno il mio ritardo. Mio padre finse di crederci. Più nulla mi pesava. Fin qui ero stato costretto a dolermi di tutto ciò che da fanciullo avevo ardentemente desiderato. Del resto la riconoscenza mi guastava i giocattoli regalati. Quale valore avrebbe per un bambino un giocattolo che si dona da sé solo? Ero ubriaco di passione. Marta era mia. Non ero stato io a dirlo, era lei. Potevo toccare la sua faccia, baciare i suoi occhi, le sue braccia, vestirla, rovinarla a piacer mio. Nel mio delirio la mordevo là dove la sua pelle era scoperta affinché sua madre le sospettasse un amante. Avrei voluto marchiarvi le mie iniziali. La mia selvatichezza infantile riscopriva gli antichi significati dei tatuaggi. Marta diceva: «Sì, mordimi, segnami, vorrei lo sapessero tutti». Avrei voluto baciare i suoi seni. Non osavo chiederglielo, pensando che me li avrebbe offerti lei stessa come le sue labbra. Passati alcuni giorni, presa l'abitudine di avere la sua bocca, non miravo ad altra delizia. leggevamo insieme al riverbero del fuoco. Spesso lei vi gettava le lettere che suo marito le spediva ogni giorno dal fronte. Dalla loro apprensione intuivo che quelle di Marta si facevano sempre meno tenere e sempre più rare. Guardavo bruciare quelle lettere non senza malessere. Per un attimo alimentavo le fiamme e alla fin fine avevo paura di vederci meglio. Marta, che ora sovente mi domandava se era vero che io l'avessi amata fin dal primo incontro, mi rimproverava di non averglielo detto prima del suo matrimonio. Non si sarebbe sposata, lei sosteneva, giacché, pur avendo provato per Jacques un certo amore all'inizio del loro fidanzamento, questo, troppo lungo per colpa della guerra, aveva a poco cancellato l'amore nel suo cuore. Quando sposò Jacques, già non l'amava più. Sperava che i 15 giorni di licenza concessi a Jacques potessero almeno trasformare i suoi sentimenti. Egli fu maldestro. Chi ama infastidisce sempre chi non ama. E Jacques l'amava sempre di più. Le sue lettere erano di un sofferente, che tuttavia aveva posto la sua Marta troppo in alto per crederla capace di tradimento. Inoltre accusava soltanto se stesso quando la supplicava di spiegargli il male che aveva potuto farle. Mi trovo così rozzo al tuo confronto, sento che ogni mia parola ti ferisce. Marta gli rispondeva che lui si sbagliava, ecco tutto, e che non gli rinfacciava niente. Erano allora i primi di marzo. La primavera era precoce. I giorni in cui non mi accompagnava a Parigi, Marta, nuda sotto una vestaglia, aspettava che io tornassi dalle mie lezioni di disegno, distesa davanti al caminetto dove continuava ad ardere l'ulivo dei suoi suoceri. Aveva loro chiesto di rifarle una riserva. Ignoro quale pudore mi trattenesse, se non quello che si prova di fronte a ciò che non hai mai fatto. Pensavo a Daphne. Qui era Chloe ad aver avuto un po' di lezioni e Daphne non osava chiederle di impararle. In realtà ritenevo Marta piuttosto una vergine abbandonata ai primi 15 giorni di matrimonio in mano a uno sconosciuto e più volte presa da lui con la forza. La sera, solo nel mio letto, chiamavo Marta, accusando me stesso, io che mi credevo un uomo, di non esserlo abbastanza per decidermi di farne la mia amante. Tutti i giorni andavo a trovarla e mi ripromettevo di non lasciarla senza averla fatta mia. Il giorno del mio 16° compleanno, il mese di marzo 1918, pregandomi di non arrabbiarmi, ella mi regalò una vestaglia simile alla sua, che voleva vedermi indossare. Poiché mi sembrava che finora a ostacolare i miei desideri non era stato che il timore del ridicolo, se il vestito lei non lo era, subito pensai di indossare quella veste il giorno stesso. Poi arrossii, avendo compreso quali rimproveri conteneva il suo regalo. Fin dall'inizio del nostro amore Marta mi aveva dato una chiave del suo appartamento affinché non dovessi aspettarla in giardino se per caso fosse stata in città. Questa chiave la potevo usare anche meno innocentemente. Era un saluto. Lasciai Marta con la promessa di venire a pranzo il giorno dopo, ma ero deciso a tornare la sera, il più presto possibile. Durante la cena avvisai i miei genitori che l'indomani avrei fatto insieme a René una lunga gita nella foresta di Senart. Perciò avrei dovuto partire alle 5 del mattino. Siccome tutta la casa avrebbe ancora dormito, nessuno poteva indovinare l'ora della mia partenza e se avevo dormito fuori casa. Avevo appena comunicato la mia intenzione a mia madre, che subito volle prepararmi un cestino pieno di provviste per il viaggio. Ero costernato. Quel cestino distruggeva tutto il romanzesco e il sublime del mio atto. Io, che già pregustavo lo spavento di Marta nel vedermi entrare nella sua stanza, pensavo adesso alle sue risate vedendo questo principe azzurro con un paniere da vivandiere sotto il braccio. Ebbi un bel dire a mia madre che René era fornito di tutto. Non volesse dirti ragione. Insistere ancora era destare sospetti. Ciò che per gli uni è causa di sfortuna può fare la gioia degli altri. Intanto che mia madre riempiva il cestino che mi guastava in anticipo la prima notte d'amore, scorgevo gli sguardi pieni di voglia dei miei fratelli. Gliel'avrei dato volentieri di nascosto, ma una volta sbaffato tutto a costo di farsi bacchettare e per il gusto di rovinarmi avrebbero raccontato ogni cosa. Dovevo quindi rassegnarmi. Poiché nessun nascondiglio mi sembrava abbastanza sicuro, mi ero proposto di non arrivare prima di mezzanotte, per essere certo che i miei familiari dormissero. Cercavo di leggere, ma non appena suonarono le 10 al municipio, i miei genitori, essendosi coricati già da un po', non potei più aspettare. Essi stavano al primo piano, io al pian terreno. Non avevo messo gli stivaletti per potermi arrampicare sul muro il più silenziosamente possibile. Tenendoli con una mano, mentre con l'altra reggevo il cestino, fragile per via delle bottiglie, aprii cauto una porticina di servizio. Pioveva. Meglio così. La pioggia avrebbe coperto il rumore. Accortomi che la luce nella stanza dei miei genitori non era ancora spenta, stavo per rimettermi a letto, ma ormai mi ero avviato e la precauzione degli stivaletti era inutile. Causa la pioggia, fui costretto a rimetterli. Dopo avrei dovuto scalare il muro per non scrollare la campanella del cancello. Mi avvicinai al muro contro il quale, prima di cena, avevo badato di posare una sedia del giardino per facilitare la mia evasione. Il muro in cima era coperto di tegole. La pioggia le rendeva scivolose. Appena mi ci appesi, una cascò. La mia ansia moltiplicò il rumore della sua caduta. Adesso dovevo saltare sulla strada. Tenevo il cestino coi denti. Caddi in una pozzanghera. Per un buon minuto rimasi in piedi, lo sguardo fisso verso la finestra dei miei genitori per vedere se si muovevano, avendo avvertito qualcosa. La finestra restò vuota. Ero salvo. Per recarmi fin da Marta costeggiai la Marna. Pensavo di nascondere il cestino in un cespuglio e di riprenderlo il giorno dopo. La guerra rendeva la cosa pericolosa. Infatti, nell'unico posto dove c'erano cespugli e si poteva nascondere il cestino, stava una sentinella di guardia al ponte di Joux. Indugiai a lungo, più pallido di un uomo che mette una carica di dinamite. Nascosi ugualmente le mie cibarie. Il cancello di Marta era chiuso. Presi la chiave, che veniva sempre lasciata nella buca delle lettere. Attraversai il giardinetto in punta di piedi, poi salii i gradini del terrazzino. Mi tolsi di nuovo gli stivaletti prima di infilare la scala. Marta era così nervosa. Forse sarebbe svenuta vedendomi in camera sua. Tremavo, non trovavo il buco della serratura. Alla fine girai la chiave lentamente per non svegliare nessuno. Nell'anticamera urtai contro il portaombrelli. Avevo paura di scambiare campanelli per interruttori. Andai a tentoni fino alla stanza. Mi fermai ancora con la voglia di scappare. Può darsi che Marta non me l'avrebbe mai perdonato. Oppure, se tutto a un tratto avessi saputo che mi tradiva e l'avessi trovata con un uomo. Aprì. Sussurrai. Marta! Lei rispose. Invece di farmi una tale paura, avresti potuto venire domattina. Così? Hai avuto il tuo permesso 8 giorni in anticipo? Mi prendeva per Jacques. Ora, pur vedendo in che modo l'avrebbe accolto di un sol botto, veniva a scoprire che già mi teneva all'oscuro di qualcosa. Jacques, dunque, sarebbe arrivato fra 8 giorni. Accesi la luce. Lei restò girata verso il muro. Era semplice dire, sono io. E pertanto non lo dissi. La baciai sul collo. La tua faccia è tutta bagnata. Ma asciugati. A questo punto si voltò e lanciò un grido. In un baleno mutò atteggiamento e senza fare lo sforzo di spiegarsi la mia presenza notturna. Ma povero tesoro mio, acchiapperai un malanno, svestiti presto. Corse a riattizzare il fuoco nel salotto. Rientrando nella stanza, poiché me ne stavo lì impalato, disse, vuoi che ti aiuti? Io che paventavo soprattutto il momento in cui avrei dovuto svestirmi e ne consideravo il lato ridicolo, benedicevo la pioggia in virtù della quale quello spogliarsi prendeva un significato materno. Ma Marta se ne andava, ritornava, se ne riandava in cucina per controllare se l'acqua del mio grog era calda. Finalmente mi trovò nudo sul letto, mezzo nascosto sotto lo strapuntino. Mi sgridò. È da incosciente star nudo. Dovevi essere frizionato con acqua di colonia. Poi Marta aprì un armadio e mi gettò una camicia da notte. Doveva essere della mia misura. Un indumento di Jacques. E pensavo all'arrivo di quel soldato. Possibilissimo, visto che Marta c'era cascata. Paola Pitagora ha letto Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.